fare il solo sarà solo una magia, ma mi sento così. Non mi sfiora neppure la nostalgia, è già fuori di qui. Apro la mia finestra e respiro un po' tutta l'aria che c'è. Voglio uscire per strada, ci credi o no, anche senza te. Com'è bella la via di casa mia e anche questa città. Mi sembrava più grigia e senza poesia, senza felicità. E ora invece le piazze, le case, i bar hanno i colori miei. Le ragazze camminano come star, col cuore a caccia di guai. Cambio e butto tutto alle spalle, e chi si è visto si è visto. Esco da me, mi rivesto di un'altra pelle. Cambio e senza tanti discorsi ritorno quello di sempre, di nuovo pronto a cadere per poi rialzarsi. Cambio e cambio e cambio e rinnamorarsi. Posso alzarmi e tornare a dormire un po', senza scuse o perché. Con la radio a manetta più che si può, prepararmi un caffè, stare su fino all'alba, suonare il rock con tutta la sua energia, mangiare a letto e sporcarmi, ma perché no, adesso è casa mia. Cambio e butto tutto alle spalle, e chi si è visto si è visto. Esco da me, mi rivesto di un'altra pelle. Cambio e senza tanti discorsi ritorno quello di sempre, di nuovo pronto a cadere per innamorarsi. Come sto bene non puoi crederci, senza il tuo broncio io senza te ho fatto 13 e ricomincio. Cambio e cambio, cambio e senza tanti discorsi ritorno quello di sempre, di nuovo pronto a cadere per innamorarsi. Cambio e cambio e cambio e senza volto.